Bentornati a Boca Chica Cosmodrome, la trasmissione da Radio Forte, dal CSA Forte Prenestino di Roma, in cui trattiamo di spazio extraplanetario e di espansione del capitalismo nello spazio. Siamo rimasti indietro di un paio di puntate, ma finalmente siamo alla nostra quinta puntata e questa è la nostra sigla. Boca Chica Cosmodrome. Boca Chica Cosmodrome. La veo la cama de tiempo. No dice nada de E bentornati quindi, dicevo, a Boca Chica Cosmodrome. Ve la ricordate, sì? Eh sì, siamo mancati per un po' di puntate, quindi forse qualcuno effettivamente se l'è anche dimenticata. Ma siamo mancati non per colpa nostra, ci sono state feste, no Bimo? Esatto. Un sacco di eventi e quindi ci siamo dovuti prendere una piccola pausa più o meno forzata. Però eccoci di nuovo. E oggi, tra l'altro, lo diciamo immediatamente, sarà una puntata un po' diversa dalle altre perché non abbiamo contributi. No, non abbiamo contributi, ma abbiamo un sottofondo nuovo che sono i cori dei tifosi della Roma che si sono riuniti qui al Forte stasera. Ah, e questo perché? Raccontaci, Bimo. Sembra ci sia una partita. Ah, ecco, quindi il Forte ha aperto le porte a questo grande evento. Eh sì. Vabbè, quindi se sentirete urla e cose del genere non è perché qualcuno è atterrato su qualche corpo celeste. No, niente. Ma è perché qualcuno ha segnato. Oppure anche in attesa che qualcuno segni, perché adesso già sono partite le canzoni, quindi già forse, non so se si sentono, fateci sapere se sentite qualche sottofondo nuovo, strano. Oh, ovviamente non ci stiamo lamentando, per raccontare come vanno alcune cose. Beh, insomma, allora, lo dicevamo, quindi siamo all'interno del centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino di Roma, da Radio Forte, trasmettiamo ormai da un mesetto circa, siamo alla seconda edizione di questa trasmissione che ha visto, è nata un paio di anni fa, ha avuto circa un anno e mezzo di pausa, di riflessione, e di nuovo eccoci qui con Boca Chica. Ci vantiamo di essere una delle poche trasmissioni probabilmente al mondo che parla di espansione del capitalismo nello spazio, e lo facciamo in maniera partigiana, ovviamente, tifando contro il capitalismo spaziale. Al Forte si tifa. Sì, assolutamente. Oggi siamo, particolarmente. Siamo assolutamente poi di parte, figuriamoci, ed è bene così. Allora, io vi ricordo che intanto abbiamo un Telegram al quale vi potete scrivere, potete mandarci impressioni, domande, anche soprattutto suggerimenti. Spesso poniamo anche dei piccoli quiz con in palio dei bellissimi adesivi disegnati dall'agitatore culturale e anche nostro socio in questa avventura, Andromalis, che oggi non ci sarà. Che oggi non c'è, appunto, non avremo la sua rubrica, non avremo neanche la rubrica di Ray Max. No, ce l'avremo in realtà, ce l'avremo in registrata. Ah, ecco, questo mi mancava. Quindi no, ci abbiamo quasi tutte, perché poi c'è anche Che Schianto, quindi solo esatto, Andromalis. Esatto. Non per colpa sua, io mi sono dimenticato di contattarlo per chiedergli il contributo, perché in realtà in questa settimana io mi sono precipitato in questa nuova settimana. Poi ieri c'è stato il primo maggio qui al Forte, che coincide anche, quindi, la festa del lavoro, ma che coincide anche col compleanno del Forte, quindi abbiamo avuto un po' da fare e siamo molto felici, siamo molto divertiti, però insomma è stata una giornata... Abbiamo nuotato un pochino. Sì, anche nuotato, insomma è stata una giornata complessa, tante complessità. Allora, quindi, ricapitolando, abbiamo il nostro Telegram, ma soprattutto abbiamo tutto il passato delle nostre puntate, che lo trovate sul sito del Forte, forteprenestino.net. Vi andate a cercare la slot della Radio Forte, e in questa a sua volta lo slot di Boca Chica Cosmodrome, e troverete tutte le puntate di due anni fa, quindi della prima edizione. Che, ripetiamo, sono propedeutiche. Propedeutiche, molto pesanti, e che durano molto più delle materie attuali che trattiamo in maniera un po' più bighellonante. Sì, eravamo più giovani allora. Sì, sì, e più predisposti. Beh, diciamo che più che altro introducevamo il problema, sì, e quindi abbiamo dovuto essere un po' più analitici in quello che andavamo a dire. Quindi diamo un po' per scontato che quest'anno chi ci segue abbia acquisito alcuni strumenti e quindi siamo un pochino più di cronaca quest'anno. Sì, quest'anno sì, siamo più leggeri, diamo più per scontati delle nozioni, delle questioni. Il tono della trasmissione è un pochino più leggero, siamo invecchiati del resto. Sì, no, ma soprattutto siamo stati bacchettati, siamo stati molto bacchettati per la pronuncia di Boca Chica Cosmodrome, che era quella iniziale. Quella iniziale era Boca Chica Cosmodrome. No. Cosmodrome. Allora, io adesso qui... quella iniziale, dicevo. Cosmodrome era quella iniziale. Ah, no, Cosmodrome. No, quella giusta è Cosmodrome. Ah, ok, vabbè, continuo a fare confusione. Infatti avevamo avuto delle rimostranze, perché è inutile, chi ha seguito la trasmissione sa anche chi è che si era lamentato. Sì, sì. O lamentata, nel sì, caso particolare, e si meravigliava del fatto che, malgrado la spiegazione, malgrado gli esempi, noi continuassimo pervicacemente a usare la vecchia pronuncia. Allora, io io, come le dissi all'epoca, noi non riusciremo mai a passare alla pronuncia giusta, pur coscienti del fatto di commettere un errore ogni tanto che diciamo Cosmodrome. Vabbè, guarda, io dico, io lo ammetto, io per poca proprio capacità di adattarmi a lingue straniere. Tu per solidarietà. Sì, io per tigna. Per basta. Solidarietà, quindi ecco, insomma. Dicevo, ricapitolando, quindi trovate tutte queste puntate sul sito di Forte Prenestino. Vi raccomandiamo, per quelli più interessati, di andarveli a ascoltare. Invece chi ascolta le nostre voci solo per intrattenersi e per farsi compagnia, va benissimo uguale. Assolutamente. E si becca un pochino di teoria e un pochino di narrazione di quelle che sono le vicende, le avventure di questa ormai chiamiamola forma di capitalismo, anche se anche su questo dovremmo fare forse più puntate, forse il prossimo anno faremo delle puntate sulla geopolitica, perché esatto, dovremmo torneremo al nostro tono pesantissimo, ore. Ma sai, Bimo, perché in realtà io sento comincio ad avere grossi problemi a definire il capitalismo in quanto tale. Cioè, un tempo era un po' più chiaro cosa fosse il capitalismo. Non è più il capitalismo di una volta, sì, sì. Quindi sì, insomma, quindi se sei d'accordo, secondo me prossimo anno dovremmo immaginarci qualche cosa che ha sempre a che fare con l'espansione nello spazio, ma magari tenta anche di tirare un po' le fila di quelle che sono le novità che questo mondo, che molti chiamano multipolare, che si sta affacciando alla ribalta, implica nelle trasformazioni dei processi di valorizzazione del capitale, che un tempo non erano finanziarizzati, molto meno finanziarizzati, molto più produttivistici e soprattutto unipolari, no? Sì. Quindi un po' di cambiamenti. Sappiate che la prossima stagione sarà così. Sarà così. Beh, ci servirà anche a noi per schiarirci l'idea, non sarebbe affatto male. Ammesso che ci riusciamo, non è una cosa facile. Insomma, sullo spazio fino adesso ci ha detto abbastanza bene sul cosmo. Va bene, allora noi comunque una costante ce l'abbiamo. Quest'anno abbiamo introdotto questi bellissimi motivetti presi dai 45 giri dell'uomo e lo spazio. L'uomo e lo spazio, che è una raccolta di cui abbiamo parlato spesso, e ogni puntata ci divertiamo a farvi ascoltare un piccolo brano in 45 giri che praticamente narra di qualche cosa che non sempre è in tema con la trasmissione, ma che in realtà riguarda lo spazio. Questi 45 giri derivano da questa trasmissione, da questa enciclopedia degli anni 70 che si chiama L'uomo e lo spazio. Noi abbiamo trasdotto i 45 giri in vinile, l'abbiamo registrati in digitale e ve li proponiamo questa sera. Intanto lo sentiamo e poi lo commentiamo. È sempre stato così da quando il primo concerto venne affidato alle onde della radio. Nel momento più suggestivo del capriccio o dell'adagio molto, la nostra radio ormai è satura di voci. Per i selettori è sempre più faticoso isolare l'acuto del tenore dalla partita di calcio. Ha detto partita di calcio. A Cape Canaveral, in Florida, un gruppo di scienziati della NASA sta preparando da tempo un importante esperimento. È l'11 agosto 1960. Nelle prime ore di domani si saprà se è possibile sfruttare lo spazio per migliorare le comunicazioni sulla Terra. Sta per essere lanciato Echo. Echo! Echo era una ninfa innamorata del pastore Narciso e Giunone la condannò a ripetere in eterno le parole altrui. Antiche e nuove mitologie si fondono nell'Olimpo di Cape Canaveral. Dalle colonne dei templi dell'Ellade gli dei sono passati alle rampe di lancio. Urano, Saturno, Giove, Venere, Atlante sono di nuovo in cielo. Agosto 1960. Racchiuso in un astuccio di 70 cm parte un involucro di plastica. Una volta in orbita, l'involucro gonfierà fino a diventare un gigantesco pallone del diametro di 30 metri. Questa mongolfiera orbitante è Echo, uno specchio sonoro che fa rimbalzare le comunicazioni radio e televisive fra antenne lontane migliaia di chilometri. L'ingegner Phil Tardani della stazione di Goldstone in California ha puntato il radiotelescopio verso ovest per entrare in contatto con il satellite alla sua prima apparizione. È l'ora 0 più 109 minuti. All'ora 0 più 112 minuti, Goldstone stabilisce il contatto con la stazione di Holmdel nel New Jersey. L'ingegner Bill Jakes capta a 4.800 km di distanza la voce dell'amico Phil riflessa dal satellite. Ascoltate un frammento di quella memorabile conversazione avvenuta via Echo da una costa all'altra degli Stati Uniti. Echo, proprio come la mitica ninfa, ripete le parole che afferra nel suo fantastico volo. Quella che ora ascoltate è la prima ritrasmissione di Echo, ricevuta a 4 ore dal lancio. È un documento ormai storico. Il presidente degli Stati Uniti ci parla dalle stelle. Qui è il presidente Eisenhower che vi parla. È motivo di grande soddisfazione per me partecipare a questo primo esperimento di comunicazione con l'impiego di un pallone satellite. Echo, che ha riflesso queste parole, potrà essere usato liberamente da ogni paese per analoghi esperimenti. La sera stessa dell'esperimento di Echo, il capo del reparto radiotelecomunicazioni della NASA tiene una conferenza stampa. Echo has proved that man can use artificial satellites in space to provide better. Il satellite Echo ha dimostrato che nello spazio è possibile ottenere collegamenti radio privi di disturbi, collegamenti televisivi in presa diretta da tutto il mondo, collegamenti telefonici intercontinentali di ottima qualità. Sono già allo studio altri satelliti che ci dovrebbero permettere di migliorare le comunicazioni sulla Terra e forniranno certamente indicazioni preziose per i futuri viaggi spaziali. Quindi eco anche di rimembranze, bellissime queste voci, bellissima questa atmosfera evanescente, spaziale, evocata in questi 45 giri. Dicevo, Bimo, oltre ad essere un satellite, di cui tra l'altro non conoscevo l'esistenza, questo eco, e sono anche eco di rimembranze, perché questi 45 giri ci riportano a tempi che furono e che non sono più. L'inizio delle mega costellazioni. Fantastico, effettivamente. Tra l'altro questo piccolo inserto, non parleremo nello specifico di Ego ovviamente, però ci porta un po', comincia a introdurci rispetto alla in particolare rispetto alla puntata di questa sera, perché si parla di saturazione elettromagnetica all'inizio, no? Ego dovrebbe avere questo senso è proprio la saturazione il tema portante della... Non quella elettromagnetica. No, però la saturazione nel particolare non tanto dello spettro quanto dello spazio intorno alla Terra, vicino alla Terra, in modo abbastanza evidente e molto dibattuto, rottami che orbitano intorno alla Terra. Ma da questo discorso poi si può andare avanti. C'è iniziato a piovere. Ah sì, è iniziato a piovere. Fantastico. Sembrava tutto in diretta. Sembrava un atterraggio. Il bello della diretta, tutto assolutamente in diretta. Esatto. Allora, senti, io prima che tu cominci a raccontarci un po' questa avventura, io te la introduco. La introduco così. Bimo, tu sei stato il nostro inviato, l'inviato di Boca Chica Cosmodrome. Esatto, insieme c'era anche Ray Max. Quindi Ray Max e Bimo sono stati ufficialmente i due inviati a questo evento serio, da adulti. Molto serio, molto serio. E molto da adulti, che ha riguardato nello spazio fisico dell'Istituto Svizzero in Italia, tra l'altro, della sede di Roma, e che ha riguardato i detriti spaziali. Quindi siete andati, non solo, ma ci racconterai. Si parlava di futuro dello spazio intorno alla Terra, e con un'enfasi sui rifiuti spaziali e sulla sostenibilità dell'industria spaziale. Così come si sta delineando sostenibilità, di cui non abbiamo parlato tantissimo in nelle nostre trasmissioni. Ma ci vuoi parlare prima del buffet? Quello alla fine, quello come tutte le iniziative, esatto, la vera ragione in realtà non era la conferenza, che soprattutto, è stata... soprattutto nella testa di Ray Max, immagino. Esatto, probabilmente, questo ce lo dirà lui la prossima puntata quando sarà tra di noi, però come tutte le iniziative dell'Istituto Svizzero si è concluso con un elegantissimo aperitivo nel parco, assolutamente meraviglioso, della villa, che è probabilmente la vera ragione per cui io e lui eravamo lì. Diciamocelo chiaro. Vi invidio, però adesso l'arduo compito di relazionarci, di restituirci un po' di questa... Allora, io ti dico, oggi questo racconto te lo devi un po' distribuire ormai in questo 45 minuti che ci separano dalla fine, quindi regolati. Ma in realtà, come tutti i miei racconti, sarà piuttosto sintetico, quindi speriamo, insomma, anche perché qui stiamo parlando di 3 ore di conferenza. Allora, intanto permettimi di farti delle domande così. Secondo te qual è il senso per cui l'Istituto di Cultura Svizzera si occupa di spazio? Quella domanda che ti volevo fare, che non ti ho fatto quando ne abbiamo parlato. Si parlava in generale di spazio e di fuoriuscita degli esseri umani, o anche si è accennato proprio al capitalismo spaziale, o meglio ancora alla space economy? Si è mai parlato proprio di space economy? Se ne è parlato nella misura in cui la space economy sta determinando il problema, nel senso che un'attività spaziale come quella dei tempi eroici ovviamente non poneva problemi di sostenibilità in nessun campo, quindi non occupava tanto spazio intorno alla Terra, non produceva inquinamento in quantità rilevanti, quindi è stato l'avvento del capitalismo spaziale c'erano dei grafici assolutamente inquietanti sulla crescita enorme che c'è stata negli ultimi pochissimi anni degli oggetti che vengono messi in orbita, una cosa veramente impressionante. Di cui Starlink immagino svettasse. Esatto. e svetta Starlink, ma nel prossimo futuro Starlink verrà affiancato da altre Amazon, ad esempio. L'equivalente, e penso che i cinesi, anzi sicuramente i cinesi stanno progettando una loro megacostellazione, anche la comunità europea stava, non perché sembra ci siano dei problemi come spesso accade. Beh, la comunità europea, lo dicevamo l'ultima puntata andata in onda, dalla rottura con la Russia grossi problemi, i suoi progetti sono tutti sistematicamente ritardati. Alcuni particolarmente, il progetto dovrebbe ritornare alcuni campioni di suolo marziano sulla Terra sta avendo dei problemi enormi. La parte russa è stata presa in carico dagli americani, ma non si procede a gran velocità, diciamo, questo è un eufemismo. Vabbè, insomma, quindi io direi, vogliamo intanto rompere questa bella narrazione con un brano musicale, perché in questa puntata un pochino di reintroduzione, una volta tanto proveremo a mettere un po' più di musica rispetto al consueto. Intanto lo mandiamo e poi ne riparliamo quando entriamo in studio. Come nelle nostre abitudini, tagliamo il brano perché abbiamo sempre troppe cose da dire. Questi erano brutali. Sì, molto brutali. I Signori della Galassia, gruppo su cui secondo me prima o poi dovremmo ritornare, savonesi. Siamo verso la fine degli anni 70 con questo brano che neanche mi sono segnato come si chiama Proxima Centauri. Ne torneremo perché in realtà su YouTube si trova una bellissima intervista al loro leader, in cui un po' piccato risponde a un giornalista della Rai che gli dice: beh, ma la vostra è una musica per le macchine, nel senso, per le, diciamo, per le macchine intese come i computer, nascenti computer, o comunque i robot e tutto ciò che era prefigurabile in quell'epoca di, come dire, di esasperazione, bella esasperazione sulle tematiche fantascientifiche che per esempio venivano dal Giappone, cose del genere. Lui, molto piccato, dice: no, questa è musica, sì, fatta con le macchine, ma da con forte carattere umano. Quindi in lui potremmo trovare il precursore, il paladino, forse una specie di anti-Terminator, un precursore di anti-Terminator, insomma. Chi ha rimesso al suo posto il giornalista, diciamo, partigiano della Rai. Ma allora, siamo a Radio Forte, a Forte Benestino, Radio Forte a Boca Chica Cosmodrome, la trasmissione che parla di espansione del capitalismo nello spazio. E invece di rifare tutto il riassunto di quello che abbiamo detto, Bimo, ci stavi relazionando su questo incredibile e fantastico convegno all'Istituto Svizzero sullo spazio. Convegno più aperitivo, sì, che si è tenuto il 12 aprile di quest'anno. E il tema, come anticipavamo, da cui si parte è l'incredibile proliferazione di frammenti di materiale che è stato mandato in orbita nei decenni, la cui quantità ormai è al di là di qualsiasi conteggio, anche perché in questo caso anche frammenti molto piccoli pongono dei problemi non trascurabili. E la prima parte della conferenza, che è durata ben 3 ore, si è occupata appunto di questo problema anche da un punto di vista molto tecnico, quindi hanno parlato persone dell'ESA o dell'ASI anche, c'era anche un'inviata dell'ASI. E questo ci dice che l'ASI esiste ancora. Esatto, esatto. che ha portato una presentazione, penso per bambini, che, sul tema, che a tratti era molto interessante, era molto tenera. E ovviamente di bambini in platea non ce n'erano, vista l'ora, c'eravamo io, Remax e alcuni pensionati, penso, e basta. Quindi semplicemente ritornano dei discorsi che noi abbiamo già fatto, torna per esempio la sindrome di Kessler, velocemente il fatto che i frammenti intorno alla Terra raggiungono un numero critico tale che innesca una sorta di reazione a catena di urti che producono poi nuovi frammenti che poi colpiscono altri frammenti, simile alla reazione a catena nucleare in realtà, che potrebbe rendere impraticabile lo spazio intorno alla Terra per generazioni. Quindi creare una cupola involontaria, esatto, che interrompe la velocità di fuga. Esatto. E quindi costringerci dentro il nostro pianeta. Anche qui hanno fatto vedere dei diagrammi che, con le stime del numero di frammenti intorno alla Terra, in cui ci sono dei gradini inquietanti in corrispondenza a degli esperimenti di uso di armi antisatellite. Particolarmente un esperimento russo del 21, che probabilmente ne avevamo parlato. Sì, sì, ne abbiamo parlato e spesso se ne parla anche proprio come prefigurazione di quello che poi è avvenuto e quello che potrebbe avvenire in una escalation contemporanea. E che era stato preceduto da un altro esperimento di un'arma simile, questa volta cinese, nel 2007. E nel diagramma si vedono proprio due gradini in cui, con degli aumenti spettacolari nel numero di frammenti legati proprio a questi due esperimenti. E quindi forse la mondezza rappresenterà una barricata alla fuoriuscita del capitalismo dallo spazio, chissà, dalla Terra. Chissà se il capitalismo si sarà chiuso dentro a quel punto. Esatto. Chissà, potrebbe essere uno. Non si è parlato di questo in realtà, non in questi termini. Beh, questo lo dicevi, ad esempio, scusami, ti rubo questo secondo perché la riflessione era molto interessante. Quando ti chiedevo se in realtà, secondo te, che differenza c'era tra l'approccio che hai trovato in questo convegno, che ovviamente ci sarà e il nostro approccio. E tu in maniera illuminante dicevi in realtà loro non si sono mai spinti, diciamo quello che facciamo noi è spingerci un pochino oltre in certo tipo di considerazioni politiche, geopolitiche, anche filosofiche, mentre sì, lì si è molto aderenti al dato. In realtà nell'ultima parte, che è la parte più interessante, la parte politica, questo tipo delle considerazioni più generali sono state fatte particolarmente dal moderatore, che il cui nome adesso mi sfugge, ma comunque che, ovviamente tutti i dati su questa conferenza li posterò nel canale Telegram. Di cui tra l'altro per il momento non esiste una registrazione, mi dicevi. No, non esiste. Io ho chiesto, non esiste una. Magari sia stato ripreso e trasmesso su internet. Non esiste al momento attuale, a mia conoscenza, una registrazione dell'evento. Ho chiesto all'Istituto Svizzero, ma non ho avuto ancora una risposta. Quindi io penso che arriverà, che penso, perché sarebbe veramente stupido non farlo, però. Al momento non è nulla. Niente. Senti, ma quindi sei arrivato a qualche tipo di conclusione su questa proliferazione di mondezza spaziale? Sì, il passaggio successivo è la sostenibilità. Come dicevo, questo è un esempio in cui di un nascente problema di sostenibilità della nostra attività spaziale. Per esempio, attualmente la soluzione ai detriti è farli bruciare nell'atmosfera. Ma qui si pone un altro, lo stesso problema però spostato nell'atmosfera, nel senso che quando si bruciano due secondi stadi che rientrano nell'atmosfera all'anno, il problema non si pone. È contenibile. Ma quando quello che brucia nell'atmosfera diventano migliaia di pezzi ogni anno, gli effetti sull'atmosfera in questo momento non sono noti, non c'è una previsione e la sensazione è che non sarebbe sicuramente un effetto benefico sulla metalli pesanti, esatto. Materiali di scarto, esatto, che si fondono. Piogge di bulloni arroventati. Esatto, piogge acide di bulloni arroventati. Fantastica. Che potrebbe essere il testo di un mio prossimo pezzo. E quindi diciamo, questo è l'aspetto della sostenibilità che non è stato in nessun modo ancora risolto, cioè diciamo no. Si lancia semplicemente un campanello d'allarme. Si lancia un campanello d'allarme che nessuno ascolta, tra l'altro, perché questo vuol dire che al ritmo sempre crescente di lanci il problema lo scopriremo quando si verificherà. Probabilmente, visto che adesso i carri armati russi nella guerra in Ucraina adottano questo carapace per proteggersi dai droni, no? Quindi ci sono questi carri armati protetti da questi scudi d'acciaio che per proteggersi appunto dagli attacchi dei droni ucraini, si farà la stessa cosa nello spazio, si manderanno razzi con dei deflettori. No, questo è assolutamente una direzione. Chiaramente ci sono degli studi per diminuire il numero di frammenti, ma ci sono anche degli studi per rendere più robusti e quindi ancora più problematici dal punto di vista della loro dismissione i veicoli che vengono mandati nello spazio. Beh, insomma, sì, diciamo che comunque sia la soluzione probabilmente sarà peggio del problema. Sì, la soluzione non voglio neanche pensarci, perché ci sarà qualche mega miliardario americano che arriverà con l'idea meravigliosa e sarà la nostra fine. Comunque io trovo molto bello che siamo, almeno nonostante il mondo sia uno schifo e vada sempre peggio, devo dire che sono molto soddisfatto del fatto di potermi di essere arrivato vivo al potermi porre, no, cioè che l'umanità, questi io problemi. Sono ancora vivo nel momento in cui l'umanità si pone questi problemi dello spazio, esatto. Quando ero bambino erano tutte cose effettivamente così lontane che sembrano più vicine, perché poi da lì a poco sembrava che in realtà le autovolanti con le conquiste dello spazio abbiamo molto rallentato, va bene, però a un certo punto ci siamo. E quindi mi sembra sempre meno peregrina anche la nostra ambizione di parlare di capitalismo spaziale, esatto, se mi permetti. Siamo. Senti, vogliamo mandare un altro brano, sì, e poi rientriamo? Assolutamente. E allora anche su questo ci sentiamo solo dopo averlo lanciato. Buon ascolto. pezzo di silenzio. Un pezzo di silenzio all'inizio, eccolo che arriva. Tu questa parte è definita, questa iniziale? Sì, sì. Manca solo quella politica. Sì. Allora, da qui rientriamo e andiamo sulle rubriche. Siamo al 21:34, sono un po' più gli altri brani. Dopo questo facciamo sottofondo, ed eccoci. Bim, abbiamo spezzato un pochino un pochino violentemente. Sì, sì, vabbè, ma vabbè, insomma, anche questa è la nostra traduzione. Tra l'altro, probabilmente abbiamo lasciato un microfono aperto, ma non abbiamo detto nulla di compromettente. No, quindi no. Va bene così. Allora, siamo sempre a Boca Chica, no. Boca Chica Cosmodrome, la trasmissione su Radio Forte che si occupa di espansione del capitalismo nello spazio. Abbiamo parlato di un convegno che si è tenuto qualche giorno fa qui a Roma, in cui Remax e Bimo erano i nostri inviati, e resecontando un po' sui temi molto interessanti che riguardano soprattutto i detriti spaziali e i problemi che questi detriti spaziali nell'epoca della space economy cominciano a porre agli esseri umani. E ad evidenziare, perché sono problemi, come vedremo nella terza parte del resoconto, che sono il sintomo di un problema. Bene, bene, insomma, comunque ci piace come problema. Allora, io ti direi, vogliamo sentire la voce di Ray Max anche sì. per cambiare un po', perché abbiamo lui fisicamente non è qui, ma ci ha mandato questo contributo e quindi noi lo ascoltiamo ci con molto. Ci ha mandato una cassettina. Ah, fantastico, fantastico. Allora, l'ascoltiamo. Salve a tutti e tutti, qui è Ray Max per la posta del cuore di Boca Chica Cosmodrome. Questa sera non ho il piacere di essere in studio al Forte Prenestino con Bimo e Cobol perché mi trovo in una zona paludosa ad esplorare per un progetto fotografico che sto seguendo, ma questa è un'altra storia. Passo subito ai temi scelti tra quelli proposti dagli ascoltatori. Anzi, approfitto per ricordare che il mezzo più diretto per comunicare con noi è Telegram e abbiamo una chat che si chiama Boca Chica Cosmodrome, esattamente come il programma. La prima segnalazione di questa sera arriva da Antonio da Roma, che ci scrive: nella scorsa puntata avete citato la serie televisiva For All Mankind come esempio di ucronia nella quale i sovietici sarebbero arrivati sulla Luna per primi. In realtà c'è un film russo che precede di molti anni questa serie. Il film si chiama Pervie na Lune, ovvero Primi sulla Luna. È un film del 2005, opera prima del regista Alexei Fedorchenko. È stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, ottenendo tra l'altro un certo successo di critica. Il film è un mockumentary, cioè un falso documentario, dove si immagina che i sovietici siano arrivati sulla Luna addirittura nel 1938, cioè prima della Seconda Guerra Mondiale, che poi entra anche nel quadro del film. Ecco, io ho sempre pensato, dice Antonio, che essendo questo film di un anno precedente possa avere in qualche modo ispirato anche fascisti su Marte. Ecco, questo è quello che dice Antonio. Io posso confermare, ho visto il film, in realtà l'ho visto un paio di volte, ed è un film molto ben fatto e singolare, e quindi ve lo consiglio. Poi il secondo argomento, una domanda che arriva da Laura di Civita Castellana, che ci dice: ho letto sui media che è stato tagliato il budget al programma di esplorazione di Marte della NASA, al quale partecipa anche l'Europa. Che sta succedendo? Ecco, prima di salutarvi, chiamo io per questa sera la prossima selezione musicale, e che non è solamente una vendetta perché Cobol l'altra settimana, l'altra trasmissione, ha passato un brano di Baglioni. Approfitto per ritornare sul tema dell'afrofuturismo, che è un argomento che a me sta particolarmente a cuore per tanti motivi. Quindi questa sera propongo un brano di un autore contemporaneo, un musicista di Los Angeles che connoto con il nome di Flying Lotus, che tra le varie cose è anche il pronipote di John Ellis Coltrane. E quindi passo a presentare il brano Zodiac Shit, contenuto nell'album Cosmogramma del 2010. Un saluto a tutti e a tutti, passo e chiudo. Beh, a questo punto, Bimo, io mi aspettavo partisse il brano. Infatti anch'io, ma ho sbagliato. Infatti. È successa una cosa... Va bene, va bene. Io volevo dire che intanto Ray Max si è un po' allargato, ormai se la canta e se la suona, perché oltre a riportarci le domande si è anche dato la risposta. Esatto. Dovremmo un pochino bacchettare. Una sì, diciamo, la seconda domanda effettivamente è una domanda, ma ne abbiamo parlato prima poi, clamorosamente, perché è proprio la nostra ascoltatrice di Civita Castellana si riferisce probabilmente ai problemi che nascono dal fatto che la NASA si sostituisce al Roscosmos per una parte della missione Sample Return da Marte, e a dei prezzi, a dei costi anzi enormi, che hanno spinto il Congresso a bloccare tutto. E in realtà quindi non si tratta di una mossa oscurantista del Congresso per in qualche modo rallentare il progresso scientifico, ma a mia modesta opinione una decisione corretta, perché la soluzione proposta dalla NASA era costosissima e aveva dei tempi completamente impossibili, e il risultato di tutto ciò è che adesso la NASA è alla ricerca di una nuova idea, non sanno quale, ma la stanno cercando, chissà se la troveranno. Il nostro mondo sta molto cambiando. Vogliamo mandare il brano? Sì, che adesso, lanciava... adesso forse riesco a colpirlo. Benissimo, e allora buon ascolto. Salve a tutti e tutti. No. Eccolo, sì. E siamo riusciti anche a far finire un brano, Bimo. Sì, forse sì, la prima volta nella nostra storia. Sì. Questa volta Remax ha fatto il miracolo. È stato bravo, ha dato un brano giustamente poco lungo che ha in qualche modo non innescato le nostre ansie sui tempi. Allora, esatto. Ricordo sempre tempi che radiofonici. Esatto, noi siamo sempre Boca Chica Cosmodrome e trasmettiamo sempre su Radio Forte in diretta dal centro sociale occupato e gestito di Roma, Forte Prenestino, ed è l'unica trasmissione al mondo che si occupa di espansione del capitalismo nello spazio. Le urla che sentite è perché in uno degli ambienti qui vicino al Forte Prenestino c'è un spazio pubblico dove si assiste alla partita questa sera, che non so neanche che partita sia. Roma qualcosa? Roma Borussia, no? Vabbè, insomma, una partita. Questo, purtroppo siamo una partita, tutti e due poco calcistici. Esatto, avete sentito quindi urla di partita e anche uno scrosciar di pioggia, perché insomma il periodo atmosferico è quello che è qui a Roma, interessante, molto molto molto variabile. Io mi sono dimenticato di citare Bayern Leverkusen. Ah, perfetto. Me sono ricordato. Perfetto. Di dare delle coordinate sul secondo brano che abbiamo sentito e ci ripromettiamo però di darle sul nostro Telegram, sì, a questo sì, punto sì. Senza anche questa è una gioiosa tradizione della trasmissione, non dire cosa sono i brani. Esatto, noi un po' siamo un po' coi tempi. La presentazione dei brani è manchevole, direi. No, ma è che siamo sempre coi tempi, siamo sempre un po' ottimisti sui tempi, sì, no? O pessimisti, sì. Dipende dal punto di vista, perché pensiamo sempre di essere corti, invece siamo esatto, super lunghi. Esatto. Ritorniamo però a bomba su quello che è un po' il tema della nostra puntata, ovvero la partecipazione tua, Bimo, e di Remax a questo convegno all'Istituto Svizzero qui a Roma, in cui si parlava di capitalismo spaziale, in realtà più di spese economy e soprattutto di ecocompatibilità, vogliamo dire così, di quello che sono i risultati più immediati di questa esternalizzazione dei processi produttivi nello spazio, ovvero i detriti spaziali. Esatto. Abbiamo rapidamente parlato della non sostenibilità di questo, delle possibili soluzioni. Tu ci accennavi a una, diciamo, un terzo panel di questo, di esatto, questo convegno, che forse è il più interessante. Sì, di gran lunga il più interessante. Purtroppo era l'ultimo, eravamo abbastanza provati quando è iniziato. Per fortuna poi l'aperitivo ci ha ritirato su, ma in questo ultimo panel si affrontavano questioni politiche e diplomatiche, la dimensione politica e diplomatica dei problemi che erano stati delineati fino a quel momento. Le persone che ne hanno parlato erano assolutamente degne di ascolto, particolarmente Natalia Schaar, che è il capo delegazione svizzera al COPUOS, che è il comitato che si occupa dell'uso pacifico dello spazio, dello spazio esterno. E, essendo tra l'altro il capo delegazione svizzera e avendo la Svizzera un ruolo neutrale e mantenendolo anche nei tempi moderni, non più vendendo armi, portando armi in Ucraina, questa sua collocazione si è molto incrinata. Non l'ha detto lei. Non lo sapevo, però lei è convinta ancora che il bluff regga. Guarda, cioè, te lo dico perché in realtà c'è... Ma producono armi gli svizzeri? No, però hanno armi per difendere sono stati in qualche modo tirati dentro nella cooperazione da questo punto di vista dalla NATO. No, la cosa molto interessante di questa punteggiatura è che in realtà ad opporsi fermamente a questo tipo di procedura, che tra l'altro porta alla Svizzera appunto un po' fuori da quella che è la sua orbita della neutralità, che poi storicamente è il Partito Comunista Svizzero, che esiste, è il Partito Comunista Svizzero. Sono sei compagni delle valli. Sì, che prima si chiamava Partito dei Lavoratori o qualche cosa del genere, che ha ripreso da poco tempo proprio l'addizione Partito Comunista, non da ultimo proprio il problema di questa defaillance in relazione alla neutralità. Dal punto di vista della neutralità direi che è decisamente una defiance. Comunque la povera Natalia questa cosa non la sa, e quindi lei è convinta che il ruolo di paese neutrale renda la Svizzera un pochino speciale all'interno di questi comitati. Quello che emerge è che sostanzialmente i trattati internazionali che vengono in qualche modo negoziati in queste sedi ONU non hanno un valore per chi li firma, non sono vincolanti. Diventano vincolanti quando entrano nelle legislazioni nazionali. Quindi da una parte noi abbiamo un meccanismo molto macchinoso per forza di cose, non per colpa di nessuno, mettere d'accordo centinaia di paesi su questioni che diventano sempre più importanti è difficile ed è lungo, anche perché non si arriva a un vero accordo è inutile procedere oltre, perché la guerra è persa. Inoltre ci sono lungaggini ulteriori dovute anche qui inevitabilmente ai parlamenti nazionali per recepire gli accordi internazionali, i trattati internazionali. Dall'altra parte abbiamo invece il definirsi velocissimo di una situazione e di interessi strategici enormi, perché chi rimane fuori è fuori dalla prossima fase dello sviluppo umano, quindi per forza di cose è impossibile fermarsi in attesa del trattato. Il che pone, a mio avviso, un problema. Quindi arriveremo probabilmente a situazioni di potenziale conflitto senza un quadro di accordi, un quadro legale ben definito, e questo non so che cosa ne pensi tu, Gobol, ma è un po' preoccupante. Ma sì, anche perché in questi casi il quadro normativo si regola con le armi. Spesso. Esatto. Accade questo. Io so quello che abbiamo ripetutamente detto, è molto interessante quello che tu dici, ne abbiamo fatto sicuramente una puntata nella prima stagione quando abbiamo parlato della giurisprudenza, l'Outer Space Treaty e tutte queste cose qua, sì, che certo, negli Stati Uniti sta venendo redatta proprio in questi, in questi anni, esatto, e della figura particolare. D'altro ti volevo fare questa domanda, si è parlato del Lussemburgo, perché Lussemburgo in Europa ha uno statuto particolare, esatto, sullo spazio, sulla spesa economica. La cosa interessante è che quando parliamo di mondo multipolare, nel caso particolare dello spazio, ne parliamo in un senso un pochino speciale, nel senso che paesi molto piccoli e di per loro insignificanti, in quanto non hanno una politica spaziale direttamente, trovano uno spazio, questo purtroppo è venuto fuori il gioco di parole, rimanendo fuori dai trattati. Quindi, per esempio, il Lussemburgo, garantendo in violazione dell'Outer Space Treaty la proprietà delle risorse che vengono estratte dallo spazio a chi le ha estratte. E quindi, se paesi molto piccoli e, ripeto, apparentemente insignificanti ai fini del problema che ci stiamo ponendo, non vengono in qualche modo integrati in queste politiche, si aprono dei buchi potenziali piuttosto, anche loro, piuttosto inquietanti. Ma io direi che, tra l'altro, al corollario di questa cosa c'è questa notizia ormai, o comunque questo dato di fatto da ormai da un po' d'anni, che uno dei, se non addirittura forse come dire, il corpo spaziale più importante e potente oggi al mondo è il Pentagono. Sì. Quindi neanche più la NASA, che probabilmente gareggia in questo momento con la Cina, che comunque è indietro rispetto alle tecnologie statunitensi, ma la NASA è sicuramente dietro al Pentagono, e che quindi un'idea normativa dello spazio oggi già passa per l'ipotesi che tutto ciò andrà regolato attraverso armi e attraverso un peso politico, strategico del comparto militare statunitense. Sì, nel caso migliore possibile, con magari accordi bilaterali tra le grandi potenze, quelle che poi si troveranno a fronteggiarsi nello spazio, accordi bilaterali che lasceranno però fuori tutti gli altri, evidentemente. Sì, siamo molto lontani effettivamente dagli anni 70, in cui si stipulavano in maniera illuministica e fricchettona, idee balzane, per cui in realtà in qualche modo tutti i corpi celesti erano liberi e tali sarebbero dovuti rimanere. Sì. Oggi si comincia ad accaparrarsi pezzi di luna, perché in realtà si inizia a trovare uno scopo pratico. Ne parlavamo qualche puntata fa. Esatto, dall'estrattivismo alle posizioni strategiche militari, che divengono sempre più interessanti, soprattutto sul satellite terrestre. Io direi, Bimmo, passiamo ad un brano e ci poi torniamo con una fantastica rubrichina che forse tu mi annunciavi forse essere l'ultima puntata. Eh sì, perché sono finite le gioiose le lavatrici che piovono sul nostro satellite, ahimè sono più o meno arrivate al termine. Non ci sono così tanti soldi per sperimentare in tanti disastri spaziali. Ma la grande espansione e il grande numero di lanci ci lascia una speranza per il futuro. Però, guarda, ti posso dire che però è perché tu non sei abbastanza cinico, se no avresti fatto una puntata sul Columbia. Sì, beh, c'erano, però dovevano essere private, perché allora ce ne sarebbe anche una russa molto, molto recentissima. Però ho voluto mantenermi sul privato, e quindi oggi parleremo, appunto, dopo dell'ultima lavatrice. Purtroppo non è proprio è caduta male, ma non si è rotta. Vabbè, allora lo vedremo dopo. Musica e poi torniamo in studio. Sì. E siamo sempre a Boca Chica Casmodrom, siamo sempre a Forte Prenestino, Radio Forte, CSOA di Roma, centro sociale occupato autogestito, da cui trasmettiamo in diretta questa trasmissione Boca Chica Cosmodrome, che si occupa di espansione del capitalismo nello spazio. Cosa abbiamo sentito, Bimo? Oggi per una coincidenza abbiamo una puntata di Afrofuturismo losangeleno, perché questo era Ras G, il povero Ras G, in un pezzo che si chiama Being Cosmic, più precisamente Ras G African Space Project, il che ce lo rende Zambia, lo Zambia era nel progetto spaziale, sì, africano, lo Zambia. Lui è un altro figlio di San Ra, figlio ovviamente non putativo. No, putativo, sì, che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, la cosa, diciamo, triste è che la ragione per cui ci ha lasciato praticamente sono tutte, o buona parte, delle malattie che affliggono i poveri americani, perché per questioni di alimentazione soprattutto, in questo caso, perché è morto di un misto di obesità e malattie legate appunto all'alimentazione, che come sappiamo gli americani, la classe lavoratrice americana non accede al massimo dell'alimentazione. E niente, quindi però ci ha lasciato una delle tante contraddizioni, ma potrebbe anche averci, in realtà potrebbe essere stato anche il suo modo per raggiungere astri e corpi celesti, glielo auguriamo tutti in esattamente realtà. Io direi a questo punto non possiamo farci mancare la rubrichina, questa puntata è tutta dedicata a te, eh sì, la parlo solo io stranamente. Esatto. La tua rubrichina è su Che Schianto, che parla appunto di tentativi privati di mandare nello spazio, magari addirittura di far atterrare oggettini, robottini su corpi celesti, ma che con grande nostra gioia falliscono, perché sono fallimenti del capitalismo spaziale. Esatto. Allora, sigletta e poi iniziamo. Bimo, prima qua. Che parti con la tua rubrichina, siccome abbiamo detto probabilmente alla fine, poi dovremmo, la sigletta è molto bella, dovremmo girarla su qualche altra, assolutamente su qualche altro tipo di rubrichina di cui ti potresti occupare te. Bisognerà inventarsela. Tra l'altro non fossi in te non mi dimenticherei del sottofondo, che dici? È vero, no, è che mi ero avventato sugli appunti. Ma hai fatto bene, quindi... te lo ricordo in maniera delicata, perché so che ti occupi di tante cose e ti do anche il tempo di farlo, eccolo. Lo svegliamo che comunque la sigletta è tua. Sì, certo. Anche sottofondo, se vuoi dire. E anche sottofondo. Anche il sottofondo. Va bene, allora, Bimo, la tua rubrica. Allora, oggi parliamo del primo allunaggio più o meno riuscito, diciamo, da parte di un veicolo privato. È Intuitive Machines missione 1, che si è anche lui, diciamo, più o meno abbattuto al suolo, ma è miracolosamente sopravvissuto e quindi sta lì piegato perché non è nella posizione che ci si aspettava, però più o meno funziona, quindi è la fine di un'epoca o l'inizio di un'epoca, la fine della pioggia delle lavatrici e l'inizio delle lavatrici che non piovono più e che arrivano e si fermano, non lo so, questo lo vedremo nei prossimi anni. Comunque la cosa divertente è che anche qui la vicenda dell'allunaggio è rocambolesca, perché il sistema che avrebbe dovuto gli altimetri che avrebbero dovuto guidare la lavatrice al suo atterraggio morbido non hanno mai funzionato. I tecnici erano riusciti a sostituirli con un esperimento della NASA che veniva trasportato da questo lander. Era un LIDAR. Un LIDAR è una sorta di un oggetto che tramite ricostruisce degli scenari tridimensionali, bombardando quello che lo circonda con dei raggi laser pulsati, molto, in modo molto molto sintetico e probabilmente non esattissimo. E quindi quando l'oggetto non si è sfracellato al suolo, tutti hanno gridato al miracolo, la NASA ci ha salvato. In realtà è venuto fuori che per un problema banalissimo di programmazione, i dati che provenivano dall'esperimento della NASA erano stati ignorati dal computer di bordo, che quindi è riuscito a salvare la situazione con delle telecamere e un sistema di guida inerziale che non è notoriamente molto preciso e non ha la possibilità di avere un'idea del suolo che si avvicina. Quindi è stato un piccolo miracolo, però è avvenuto. Noi siamo un po' tristi. Possiamo dirlo. Non ci hai detto cosa ci andava a fare. Intanto dove? Sulla Luna? Sulla Luna. E che cosa andava a farci? Andava a fare, come al solito, un misto di esperimenti della NASA, che ovviamente ha pagato gran parte di tutta l'operazione tramite uno dei suoi programmi commerciali. Ma oltre a questo, ovviamente, c'era la consueta... carico di... inutilità, tra cui delle inutilità che noi conosciamo molto bene, perché per esempio conteneva l'immancabile, a questo punto, insieme di fogli di nickel contenenti informazioni sull'umanità, quindi canzoni di Elvis, canzoni di Bob Marley questa volta, e enciclopedie di vario tipo. La cosa divertente è che gli organizzatori della missione ci tengono a precisare che il carico non conteneva né tardigradi né campioni di DNA umano. Chissà perché. Beh, una novità, effettivamente. Sì, è la cosa molto divertente, che abbiano sentito il bisogno di precisarlo. Per distinguersi. Sì, sì, esatto. Anche perché il fogli di zinco avevano lo stesso padrone della di quelli che della prima del primo disastro di cui ci siamo occupati in questa stagione, il Bereshit israeliano. Beh, cominciano ad esserci più enciclopedie sulla Luna che sul pianeta. Esatto, tutte scritte su nickel e quindi illeggibili a occhio nudo, ma in realtà ci sono. Tra l'altro, oltre a questo, c'era una scultura di Jeff Koons. Te lo ricordi, Jeff Koons? No. Un artista americano che è stato anche il marito di Cicciolina, all'apice capito. Della sua carriera, non di Cicciolina, sì. Di Jeff Koons, ovviamente. Sì, sì, sì, sì. E poi c'erano, vediamo, i segreti delle magie di David Copperfield. Beh, interessantissimo. Vero? Interessantissimo per qualcuno che si schianta sulla Luna, non esatto, sa che cosa queste leggere. Non si sono neanche schiantate, stanno lì dentro la loro lavatrice in attesa che arrivino degli UFO. Sì, no, che qualcuno si schianti e non sapendo cosa fare a quei libri da leggersi. E i porno di Cicciolina per in qualche modo farsi compagnia. Impari a fare dei giochi di prestigio di Copperfield, per esempio, potrebbe anche essere quello. Sì, tra l'altro, il fatto che appunto la Luna si stia riempiendo di questi artefatti inutili, comunque di tante enciclopedie, mi ricorda il fatto che il secondo pianeta su cui viaggiavano, comunque funzionavano più computer all'interno del sistema solare, era Marte. Sì. Marte. Forse oggi la Luna ha recuperato, però, ecco, tutti questi tentativi con i nuovi esperimenti d'Artemis, con i cinesi che sono arrivati sul lato oscuro, i giapponesi, insomma, quindi forse questo equilibrio si è un pochino ridistribuito. È una competizione appassionante. In realtà tra la Luna e Marte, assolutamente, questo assolutamente. Nella prossima stagione. Però per un certo periodo noi, secondo me, dovremmo fare un po' un focus su Artemis, cercheremo di farlo. E era un po' però che, insomma, sulla Luna non si mandava nulla, Marte era diventato un po' il centro degli interessi, sembrava essere diventato un po' il centro degli interessi. E da una decina d'anni questo interesse per la Luna è riesploso, per varie ragioni, anche perché le tecnologie... È esploso proprio nel senso che degli oggetti esplodono sulla superficie lunare. E questo la dice lunga su quanto nel 69 siano stati quantomeno fortunati. fortunati a questo punto nell'atterraggio. Allora, io direi mandiamo l'ultimo brano per la giornata, rientriamo per i saluti e per fare un po' di riassunto. Oggi abbiamo detto che insomma già abbiamo lanciato, tipo, prima di fare questa del lancio della musica, ti volevo dire, abbiamo lanciato già due puntate possibili, una sulla geopolitica, un'altra su Artemis, e ricordiamoci, io lo dico qui pubblicamente, che noi prima o poi dovremo parlare del nostro progetto spaziale che abbiamo elaborato qui a Forte Prenestino, e avremo un ospite di eccezione, forse due addirittura, se riusciamo a mettere insieme la cosa. E quindi ci rimane che sentire un po' di buona musica. E siete sempre in ascolto di Boca Chica Cosmodrome, una trasmissione che parla di espansione dello spazio, del capitalismo nello spazio, non ne sto beccando una, e in diretta dal centro sociale occupato gestito Forte Prenestino di Roma a Radio Forte, come qui Bimo, e siamo in chiusura di puntata, la quinta puntata di questa seconda edizione. Bimo, sì, ci siamo appena sentiti un pezzo, si chiama Saturno, di una band italiana che si chiama The Dining Rooms. Ah, ben italiani, non avrei mai detto. Esatto, neanche io, sentendoli invece, è proveniente da un album che si chiama Do Hipsters Love Sun, e tra parentesi Ra, quindi ancora San Ra che torna, oggi proprio l'eroe della puntata. Beh, dall'altro canto, qualsiasi trasmissione controculturale parla di spazio, non può non fare riferimento ogni tanto almeno a San Ra. Allora, vi ricordo che trovate tutte le puntate trasmesse sia della prima che della seconda stagione fino adesso, questa è la seconda stagione, siamo alla quinta puntata, sul sito forteprenestino.net, nella slot di Radio Forte, nella slot nel sottogruppo di Boca Chica Cosmodrome. Non vi stupite se il fatto che ogni volta lo dico in maniera diversa, ne abbiamo parlato all'inizio. L'unico che riesce a pronunciarlo correttamente è Ray Max. È certo. Poi forse un giorno spiegheremo anche il perché. E, beh, intanto grazie per averci ascoltato. Noi vi lasciamo con la sigla di chiusura. Ce l'abbiamo la sigla di chiusura? Certo, ah, perfetto. Ce l'abbiamo. E tendenzialmente, visto che quest'anno siamo un pochino più disordinati, vi rimandiamo alla prossima puntata giovedì prossimo, sì, che credo ci saremo. Ce la metteremo tutta per esserci. Scusateci, anzi, se questo periodo siamo stati un pochino più intermittenti, forse potremmo esserlo ancora una volta, ma cercheremo di diventare un po' più precisi. Quest'anno l'avevamo sottolineato che saremmo stati meno marziani. Esatto. Meno marziani, e lo siamo anche parecchio meno. Esatto, forse troppo poco. Anche nella presenza, ma puntiamo su una terza stagione, esatto, che sia di equilibrio tra le due. Di sintesi. Esatto, tra la marzialità della prima e il totale lasciarsi andare della seconda. Beh, grazie per averci seguito, e iscrivetevi al canale, fateci domande, fateci proposte. Troverete tra l'altro anche una bellissima biografia che abbiamo stilato proprio per venire incontro a chi volesse approfondire questo tipo di temi. E quindi buona settimana e buona attesa per la prossima puntata. E alla prossima. Ciao Bimo. Ciao.